Stiamo, ecco, dicendo che dobbiamo recuperare anche per uscire dall'eredità di tutti i peccati del primo uomo e di tutti gli altri, anche dei nostri nonni e dei nostri stessi, che lasciamo in eredità ai vostri figli. Noi non abbiamo figli, non dobbiamo lasciare niente a nessuno, a voi che ce l'avete. Buon lavoro, ecco, nel giardino. Dio ci ha creati giardinieri. Si sente dire solitamente che il lavoro è un castigo del peccato. Questa è un'altra grande menzogna messa in giro dai teologi o dai filosofi o da quelli che non conoscono il messaggio biblico. Basta anche solo vedere come spesso si lavora senza entusiasmo o con la sola preoccupazione di un guadagno materiale. Ecco perché il lavoro non dà soddisfazione, perché lavoriamo soltanto per il guadagno materiale, e quello non ci basta mai, non ci soddisfa mai. La Bibbia non dice che il lavoro sia un castigo, casomai dice il contrario. Il lavoratore biblico ha sentito, come tutti, la fatica penosa del lavoro, chiaro, ha sperimentato l'aridità del deserto come un segno della maledizione del suolo. E allora avete la maledizione del suolo immaginata lì, data da Dio. Ma proprio perché non ci si rassegnava a quest'idea, l'autore, che abbiamo chiamato Yahvista, perché quando parla di Dio lo chiama Yahweh, da cui deriva Jehovah, Geova, quello dei cari testimoni di Geova, ecco, fa introdurre l'uomo nel giardino assai prima della creazione di Eva e quindi prima della condanna per il peccato. L'uomo è introdotto nel giardino perché faccia il giardiniere prima del peccato. Allora è una vocazione essere giardinieri, è una vocazione il lavoro. Il Signore Dio prese l'uomo, lo introdusse nel giardino di Eden perché lo coltivasse e lo custodisse. Questi autori immaginano il giardino come un'oasi nel deserto, è ovvio, perché scrivono per un popolo che vive nel deserto. Nella misura in cui l'uomo, attraverso le scoperte piccole e grandi della scienza o dell'umana industria, riuscirà a diminuire e a vincere la fatica del lavoro, e allora ben siano benedette le macchine, se sono utili per questo, riuscirà anche ad essere più sereno e disteso, ma se non fa attenzione si arrabbia ancora di più, perché poi oltre ad aggiustare se stesso deve anche aggiustare le macchine. C'è da augurarsi, ma non è dato per scontato. Per tutte queste cose funzionano se l'uomo ragiona con la testa, ragiona con tanto più se ha la fede, ragiona facendo funzionare bene la fede. C'è da augurarsi che riesca a vincere l'affanno eccessivo, quello che produce lo stress con tutte le conseguenze. L'affanno eccessivo per la ricchezza, frutto del lavoro, che si educhi maggiormente alla gioia della gratuità e del volontariato. Riacquisterà equilibrio e riscoprirà il senso dell'avventura umana, con la sorpresa di incontrare Dio che viene sempre a passeggiare nel giardino alla brezza del mezzogiorno. Guardate un po' Genesi 3:2, a quei tempi Dio andava a passeggio per godersi la brezza del giardino a metà del giorno, non per chiedere conto della nudità del peccato, ma per anche l'idea del peccato che ci lascia nudi, no? È l'immaginato attraverso la vergogna. Adesso che tutti si spogliano volentieri, dovremmo dire che è segno che stanno superando tutti i peccati del mondo. Il guaio è che sono a spogliarsi del tutto, proprio del tutto, sono solo le donne. Gli uomini, se fate attenzione, ecco, il pezzettino con sempre inibito tutto. Guardate, che ci sarebbe da riflettere anche psicologicamente su tante cose, ma riflettere anche a senso profondo e riscoprire la bellezza della gioia della vita, della bellezza del corpo, la bellezza della nudità, la bellezza di tutto, se avessimo un cuore puro. Senza annullare l'istinto della sessualità, il desiderio, per fortuna, perché vi si dice sempre che è peccato desiderare una donna, ma Lutero dice che è un dono di Dio desiderare per il maschio desiderare la donna, e viceversa, penso, ecco, un dono di Dio, perché se non ci fosse questo benedetto dono non saremmo venuti al mondo. E allora riprendiamo un po' ste cose alla luce del progetto di Dio con un po' più di serenità e di equilibrio, senza finire come necessariamente devono farci finire tutta la televisione. Non per, ecco, chiedere conto della nudità del peccato, ma per stringergli la mano a Dio, abbracciarlo e complimentarci dei bei vestiti con cui ha rallegrato la vita del giardino. In ciascuno di noi, vedete, sonnecchia un giardiniere. Ah, bello primavera. Guardate come abbiamo pulito bene per voi oggi fuori. E poi c'è ancora lavoro anche per quanti volessero venire a darci una mano, perché un po' più in là, qui vicino, poi estendiamo mano. Grazie a Stefano che mi ha aiutato in questi giorni, e ad altre persone, insomma. Bueno, grazie al dottor Ferrero, sua moglie, c'è un sacco di gente che ci vuol bene, credetelo. È bello oggi incontrare delle persone che, emigrate dalle nostre zone impervie di montagna, esigenti di fatiche e avare di frutti, quasi come i deserti biblici, ritornino alle vecchie case, le rimettano in sesto con buon gusto e le circondano di un grazioso giardino per 15 giorni all'anno. Per conto mio, ecco, io sono venuto dalla campagna, metto qui, sono passato a coltivare altre vigne, quelle che abbiamo chiamate le vigne del Signore, ma è tutte le vigne sono del Signore. Le vigne del Signore erano il convento, il monastero, il seminario, le nostre chiese, ma fa ridere. Tutto è di Dio, tutto il creato. Mi sono urtato una volta il mortale, un vescovo di Mondovì, perché tante volte, ma quella volta lì c'era il signor Masseroni, l'attuale vescovo di Vercelli, mi dispiaceva perché non mi sono mica urtato, vi ho solo detto perché una volta tutto scandalizzato, una donanza di clero dice, ma state attenti, non voglio abusi, perché sono venuti da monastero una coppia di giovani sposi, c'era un giovane sposo prima. Dove ti sei sposato da tanto tempo? Com'è? Allora sei ancora fresco, capisci la cosa. E dice, sono venuti a chiedermi di sposarsi in un bosco all'aperto, e tutto scandalizzato, dice, no, non possiamo permettere, il luogo non è sufficientemente sacro. Io sono scattato, gli ho detto, ma proprio un vescovo che mi dice queste fesserie qui, il luogo più sacro è il creato, è l'universo, è la grande cupola prodotta da Dio, e altre cose le abbiamo costruite noi con la pretesa di fare una casa a Dio, ma già a Davide nel 1000 avanti Cristo il profeta Nathan, quando aveva il progetto del Tempio di Gerusalemme, alla sera gli ha detto sì, hai una buona idea, al mattino è andato a prendere il caffè e gli ha detto mi sono convinto che invece la tua idea è perversa, perché tu ti sei messo in testa di fare una casa a Dio, quando è Dio che fa tutte le case per noi. Cosa ti... E allora passano già nel 1000 avanti Cristo dalle pietre alle persone, e noi siamo rimasti ancora legati alle pietre, perché per noi sono più importanti le chiese di pietra che le persone viventi. Quali sono le persone? Siamo disposti a lasciar morire oggi migliaia, migliaia, migliaia di persone, ma troviamo i soldi per tenere in piedi e costruire altre nuove chiese, no? Dimenticandoci che Gesù ha detto, donna, è arrivata l'ora in cui né su questo tempio, sul Garizim, no? Né sul Garizim né a Gerusalemme adorerete Dio, Dio ha bisogno di adoratori in spirito e verità. Voi per carità contribuite con i vostri parroci a tenere le chiese che abbiamo costruito. Ecco le vigne del Signore, quali sono? Ecco. Allora direi che possiamo augurarci se lo trovate, pensavo di averlo citato qui, invece devo averlo messo a conclusione del secondo volume, un testo famoso di Kipling, no? E qua da buon inglese dice che è l'Inghilterra il giardino del mondo, e però dice che il giardiniere quasi tutto il suo lavoro lo fa in ginocchio. Quasi tutto il suo lavoro lo fa in ginocchio. Allora svegliamo dentro di noi il giardiniere sonnacchioso. L'umanità si rigenera aprendo gli occhi ogni mattina alla vita e alla gioia di un giorno nuovo. Il giardino ora dipende da noi. Dobbiamo avere il coraggio e la volontà di essere dei buoni giardinieri. Il peccato è una dura realtà, ecco il messaggio del peccato originale, una dura realtà, e non si trasmette per via generazionale come colpa, ma che si trasmette per le conseguenze che produce, ma sarà vinto perché già è stato vinto, ecco, ci dice il Nuovo Testamento, da un giardiniere di gran classe che ha vinto la morte. Là si produce la morte, sarà, e Paolo, come sapete, che ha detto la morte la dobbiamo dire grazie ad Adamo, per la vita dobbiamo dire grazie a Gesù, al giardiniere. Ecco perché Giovanni lo fa seppellire e risorgere in un giardino. Lo troveremo, ecco, questo giardiniere risorto con Maria Maddalena, proprio al giardino da cui siamo partiti stamattina. Ecco, che ora sono andato un po' oltre, ma abbiamo un po' di tempo. Ecco, questo, prova un po' a distribuirlo, va, prendi indietro, le distribuisci anche Eva, seduttrice o donna ideale, così potete, forse, se ho capito bene, qualcuno deve partire, deve andare via. Allora potete leggervi, riprendervi con calma. Se poi qualcuno è interessato al giardino nella Bibbia, secondo, io ho il dischetto, posso sempre tirarne una copia e spedirgliela, me lo fa sapere. Ecco, adesso rispondiamo se ci sono delle... A proposito del peccato originale, io sono sentato la più anziana di qui, e infatti il catechismo, come dicevi tu, ci aveva insegnato che abbiamo una predisposizione al peccato perché abbiamo il peccato originale. E allora forse erano anche un po' una giustificazione al nostro peccato, perché dicevamo, ma se abbiamo questa colpa che non è nostra, magari... E poi mi era difficile capire come la Madonna fosse così disponibile verso la volontà di Dio, perché se lei non aveva peccato originale e non aveva di conseguenza questa inclinazione, per lei era semplice essere buona, essere... E allora senza merito era, non aveva nessuna... E mi era difficile capire questa cosa. Ma indubbiamente l'impostazione tradizionalista, il peccato sì urta contro queste infinite difficoltà, perché a cui non se ne viene più fuori. Il catechismo ci dava l'immagine di questo giardino, di questa Eva, che io ce l'ho ancora presente adesso. Eva soprattutto. Eva soprattutto, no? Ecco, che ci aveva trasmesso questo male. Questi problemi li trovate tutti toccateli in Eva. Ci sono sacerdoti ancora oggi che parlano. Purtroppo tempo, sì. Purtroppo c'è ancora, anzi direi che se non state attenti c'è un ritorno alle interpretazioni tradizionaliste, perché c'è tutta una spinta anche che viene da oltre oceano per un ritorno letteralista alla lettura della Bibbia. Un buon libro che vi può aiutare, tradotto dal francese, di un grande biblista teologo e pastoralista anche Bernard Sesbuet, credere, invito alla fede cattolica per le donne e gli uomini del XXI secolo, edizione queriniana. Questo è molto bello. Potrebbe dire a qualcuno cos'è il peccato originale, perché il battesimo qui fa fino a... Ecco, poi oggi direi di affrontare un poco il tema del battesimo in vista del... adesso è diventato figlio di Dio. Ma allora quelli non battezzati che noi diciamo tutte le creature del mondo figli di Dio. Sì. Io direi... Ricordatemelo oggi, se non viene fuori chiariamo un tantino che cosa biblicamente nel Nuovo Testamento può significare diventare figli di Dio, perché Giovanni dice proprio così, coloro che lo accolgono diventano. Allora a prima vista c'è da pensare che non siano figli di Dio. Allora bisogna un po' vedere che cosa si intende biblicamente, o almeno Giovanni intende biblicamente quando dice diventare figli di Dio. Non varrà un po', tanto per anticipare per quelli che non ci fossero, un po' la stessa idea che vale anche a livello umano. Padre, quando lo diventate padre? E figlio, quando lo diventiamo? Padre e la madre diventano padre e madre quando mettono al mondo, nell'istante in cui mettono al mondo il figlio, la voglia. È stata la parte più semplice, tutto sommato, o più difficile per la donna, per la verità, ma ancora semplice. Ma poi si diventa padre, se, tutti i giorni. No, non lo diventa mai. Qualcuno non lo diventa mai, eppure può aver generato anche fisicamente decine di persone. No? E quando è che uno diventa figlio? Perché cresce negli anni? No, perché matura, perché capisce che cosa significa essere stato generato, aver ricevuto in dono la vita, che cosa significa essere riconoscente, che cosa significa essere... Ecco, è in questo senso che si diventa figli di Dio. E poiché Dio è amore, ecco, anticipiamo e torniamo, perché il cerchio ritorna sempre lì, se Dio è amore, come ci rivela il Nuovo Testamento, perché Gesù è figlio di Dio, perché Gesù è figlio primogenito, unico di Dio, perché nessuno al mondo, stando ai fatti che conosciamo, si è dimostrato così amoroso verso gli altri, così disinteressato, così gratuitamente, ecco, da offrire la sua vita per gli altri di Gesù. E allora gli evangelisti e i cristiani delle origini hanno visto nella generosità di Gesù, nel dono della sua vita per gli altri, la massima manifestazione, rivelazione di Dio amore. Allora hanno detto: Gesù è colui che più di tutti assomiglia a Dio. Allora Dio, essere somiglianti a Dio, questo significa essere figli di Dio, no? Perché in ebraico è un'espressione usuale. Per esempio, voi avete l'espressione figli della luce. Cosa vuol dire? Figli della luce vuol dire luminosi. Figli delle tenebre vuol dire tenebrosi. Allora, figlio di vuol dire che assomiglia, che è in tutto uguale a. Allora, se vivete nell'amore, quanto più vivete nell'amore, assomigliate a Dio, allora siete figli di Dio. Ma siccome questa è la fatica del lavoro del giardino, questo si diventa, tutta la vita si diventa figli di Dio. No? Sì. Segna, traccia l'arrivo del cammino dell'umanità a completamento del progetto del sogno di Dio. Allora, aspetta, no, mia personale, per quella ragione, avendo creato l'uomo con questo fine, poi ha aspettato 2000 anni o 4000 anni, infatti era sempre sulla scala umana, per mandare il figlio ad aprirci gli occhi, cioè a dirci non è tutto il passato è sbagliato. No, mica mi ha detto che è sbagliato, non dobbiamo... Abbiamo detto anche dell'ebraismo, eccetera. Non dobbiamo giudicare l'antica alleanza come sbagliata. Dobbiamo prendere atto di tutto l'insieme e vedere come c'è stato un cammino, come c'è stato un progetto che si è realizzato nel tempo e si realizza nel tempo. Non è detto, era forse necessario, non poteva andare così. Tante cose poi che per noi sembrano essenziali, forse per Dio non lo sono. Forse non è tanto Dio che si è mancato l'appuntamento, quanto noi che abbiamo pensato le cose così. Ma allora viene spontaneo pensare alla creatura. Se lui voleva crearsi su di me, perché si è fatto così? Ma perché forse tutto così come siamo, non è poi una cosa da disprezzare, è una cosa bellissima che siamo fatti così. Se no come dovremmo essere? Dei robot perfetti? Delle macchine che filano tutte a perfezione, tutte uguali, chi lo sa come. E poi se crediamo che più che essere Dio direttamente, è Dio attraverso tutta l'evoluzione dell'universo, del creato che si auto-organizza così, perché dietro c'è questo progetto di Dio che ha buttato, ecco la luce, ha detto, no? È un qualcosa che misteriosamente diviene. Il tutto come se Dio non ci fosse. E per il credente il tutto perché c'è Dio dietro a tutto. No, credenti e non credenti fanno lo stesso cammino di vita, se vuoi, hanno le stesse difficoltà, le stesse gioie, eccetera. Ecco, indipendentemente. Guardate come che Dio liberale, che Dio grande. Noi distinguiamo se quello è Dio. No, per me sono tutti allora piena libertà. Certo, c'è un'infinità di misteri che non risolveremo mai a livello scientifico, a livello teologico, a livello, ma questo lo dobbiamo un po' dare per scontato, perché se volessimo capire tutto dovremmo essere Dio. Dovremmo essere Dio. Poi sarebbe anche un mondo abbastanza piatto, monotono. Se fossimo tutti perfetti, sempre sani, probabilmente, sempre se vogliamo, questa osservazione ci aiuta a capire quale potrebbe essere stato il peccato originale nella sua colpa, ecco. Quello di voler saltare la creaturalità, no? È come se mangi, ti ha detto di non mangiare di quel frutto, no, perché il frutto suo è il frutto che lo rende Dio, se tu lo mangi diventerai come lui. Questa è la tentazione veramente del grande peccato, l'uomo che vorrebbe non accettare di essere creatura e avere la sapienza di Dio senza riceverla in dono. Invece il progetto di Giovanni è diverso. Giovanni vi dirà, no, non soltanto il progetto di Dio è quello di non stimare peccato, quello. Dio è stato contentissimo che Adamo ed Eva volessero essere come Dio. Tanto è vero che adesso Gesù è venuto proprio per questo, per dirci che siamo figli di Dio. Allora, Dio non è che non voglia questo progetto, Dio gode che l'uomo voglia essere Dio. Ecco, però il peccato è pensare di poter essere Dio senza ricevere in dono questo. Cioè, voler non essere creatura e esigere o pretendere di potersi donare questa vita da solo, che lì viene immaginato attraverso la disubbidienza, perché è il sistema che sta un po' dietro al fare e al non fare dell'uomo. Questo è, secondo me, il vero peccato di tutti, veramente il peccato che sta alla base di tutti i peccati. non saper ricevere in dono, non saper capire che siamo totalmente un atto gratuito dell'amore di Dio per noi e per l'umanità, che tutto è dono gratuito. E che collocazione puoi dare al dolore, alla sofferenza? Ebbene, possiamo discutere e vedere se riusciamo a capirci un po' meglio, ma non, questo credo che stia alla base di tutto, questa esperienza di gratuità, no? Di accoglierci e di riceverci con i nostri limiti come, e contenti di essere dono di Dio. Ecco, se scavalchiamo questo, andiamo in quello che la Bibbia lì sembra chiamare peccato di superbia, voler essere simili a Dio. Voler essere simili a Dio è il progetto stesso di Dio, che l'uomo sia simile a Dio, sia Dio, no? Tant'è, ripeto, Giovanni allora dice che è venuto per, siete figli di Dio, no? Ecco, però il pensare di poter essere questo, a quanti l'hanno accolto, ha dato il potere di diventare. Ma se pensiamo che quel potere possiamo averlo per forza nostra, per meriti nostri, ecco il meritare, ecco il meritare il paradiso, ma non meriti niente, non si può meritare Dio, non si può meritare il paradiso. Non dobbiamo smetterla di pensare che dobbiamo essere buoni, che dobbiamo essere santi, che dobbiamo fare dei sacrifici perché dobbiamo meritarci il paradiso. Non ci meriteremo mai il paradiso, se il paradiso è la presenza stessa di Dio amore per noi, no? Ci disponiamo a riceverlo meglio in dono, quindi dobbiamo fare tanto, no? Dobbiamo capire l'amore di Dio e rispondere col nostro amore, né più né meno quello che avviene tra due innamorati. Ecco, quando uno dice ah, mi sono innamorato di te, e l'altro che cosa fa? Gli dice aspetta che me lo scrivo sull'agenda. Se è interessato agisce diversamente, e allora si darà da fare. Dice sì, accolgo il tuo amore, è il più bel dono che potevi farmi, è il più bel dono che sento dalla vita, però a quel punto scatta il pagamento, a quel punto ecco, la grazia comincia a diventare costosa, perché ne avrai per tutta la vita da pagare, e sarà sempre gratuito però quel dono. Perché se vuoi veramente bene, non c'è conto in banca, in euro o in dollari che possa pagare quell'amore, no? E così penso nei confronti di Dio, per ragionare alla maniera umana, per carità. Come? Ecco, Satana, se volete sapere qualcosa di più di Satana, prendetevi per esempio questo di Padre Maggi. Per avere i testi di Padre Maggi andate a cercarvi studibiblici.it, c'è il sito di Padre Maggi, e lei va, andate su testi, oppure cosa c'è, testi, conferenze, ecco, trovate tutti i testi dei suoi incontri biblici, e va a cercarsi chi è Satana e se lo preleva e poi leggete. Oppure oppure c'è anche quel bel libro di Padre Maggi, Gesù e Belzebù, dove fa passare tutta la teologia biblica sui demoni e su Satana. Ma a inoltrarci lì ci andrebbe un incontro apposta, perché la Bibbia... Andiamo fuori tema. Certamente, guardate, sia il paradiso, sia l'inferno, sia Satana e sia soprattutto Dio, non esistono come li abbiamo pensati solitamente noi. Sono realtà, specialmente il mistero di Dio. Penso tutto diverso da come riusciamo a pensare. Per fortuna è diverso da come ce l'hanno descritto. Per fortuna, solo saremmo rovinati. Quindi, sotto un certo aspetto, è sempre tutto da rifare. Tutta la vita è da ripensare. Tutta la vita, ma questo e le volte è dato, sì, per, dato per scontato, dovrebbe essere dato per scontato per chi cresce sino alla vita eterna. E anche aver immaginato la vita eterna come qui è perpetua, riposo perpetuo, ma insomma dopo qualche secolo che saremo che pure stanchi di star lì. Io mi, la monotonia del paradiso mi preoccupa. Però io ho le cassette dove si parla del paradiso, se qualcuno vuole sentire. E padre Livio. Ci sono gli angeli che... Lasciate padre Maggi che è triste, che è demolitore, dice chi segue Radio Maria non può essere cristiano. In paradiso. Poi per carità, ci sono adesso, mi dicono che ci sono tante cose anche belle, tante cose interessanti, quindi prendetelo come battuta, che vi aiuta adesso di adesso abbiamo applicato velocemente a questo tema, ma lo applicheremo anche agli altri. Bisognerebbe poco per volta entrare di più nel meccanismo di progressione dell'esperienza storico-religiosa di Israele, come viene fuori dalla Bibbia. E quella fascia lì vi può aiutare molto, perché quella fascia lì vi organizza sul binario del tempo, sul binario cronologico, i vari accadimenti narrati nella Bibbia, che come vi ho detto per i primi due capitoli imposta tutto all'impazzato, perché la Bibbia è una biblioteca dove è stato tutto mescolato, messo prima ciò che nel tempo è venuto dopo, messo in chiave storica da una parte, in chiave tradizionale dall'altra, in chiave di racconto mitologico dall'altra. È tutto molto complicato, la realtà la constatate ogni giorno, che se prendete in mano la Bibbia, leggete un po' e poi non capite, non si capisce più niente, specialmente nell'Antico Testamento, quello che è successo prima, quello che è successo dopo. C'è una profonda evoluzione in tutto il pensiero biblico, perché c'è un'evoluzione nella storia stessa di Israele, come c'è nell'umanità, ecco. E allora è molto importante quella, una fascia del genere vi costa poco, l'ha trovata all'LDC di Torino. Io una volta andavo sempre in giro con centinaia di copie e ne rivendevo, e poi mi sono stufato di fare il mercante, ecco. Però ve lo potete trovare sovente li davi, ma non prendevi una lira, allora in qualsiasi libreria, l'LDC o alle Deoniane a Torino, voi che e c'è anche, se vedete nella cappella, il panorama parallelo di storia della Chiesa da Cristo al Concilio Vaticano II. Ecco, quindi avete. Attraverso una bacchettata magica di Gesù, che ha fatto un segno di croce, che non lo faceva ancora perché poveretto sperava tanto di non morire in croce prima del tempo, ecco. E allora un segno di croce, toc, toc, toc, toc, è diventata una collina di pane e un pesce e quintali e tonnellate di pesce a disposizione. Avrei voluto vedere come avrebbero fatto a friggerli tutti in tempo per il mezzogiorno, ecco. Questa è la magia. Gesù si è rifiutato sempre di essere considerato un mago. Quando gli evangelisti parlano delle tentazioni, dicono che ha respinto, non dirò mai alle pietre di diventare pane, eppure sono quelle belle pietre a forma di pane rese tale dalle acque del deserto di Giuda, ecco. No, allora vuol dire che la moltiplicazione dei pani non è avvenuta così. Se non è avvenuta così, l'altro unico mondo è quello che quel ragazzino generoso, come sono i ragazzi in genere, dice: oh, io ho qualcosa in più, mia madre oggi mi ha messo nello zaino 5 pani e 4 pesci, o quanti erano, io sono disposto a dividerli con la catena, tutti hanno diviso, e ce n'è stato come oggi d'avanzo per tutti. Non è vero, oggi il vostro buon cuore ha provvisto, come avviene sempre a tutto. Vi ringraziamo, perché questo è l'Evangelo in pratica. Solo qui siamo tutti tra persone più o meno benestanti, c'è da pensare che la gioia anche della condivisione di oggi ci alleni a condividere altrettanto gioiosamente con chi ha ancora di meno, con chi non conosciamo per niente, con coloro per i quali possiamo avere dei punti interrogativi, eccetera. E di questo vi ringraziamo. Invece credo che la gioia e il bello di queste cose più o meno informali è che è così, senza essersi mai visti, dopo 5 minuti si può sentire amici e col cuore aperto vicendevolmente, no? Ecco, io prima di passare oltre cederai un momento la parola a Franca, la nostra venerabile segretaria. Il silenzio è lo stesso che ha detto, qualche volta fate anche qualcosa che si veda, perché se non vedono mai niente, dicono che c'è niente. Nessuno? Sì? Voi avete il gruppo della parrocchia, del volontariato, dove no? Parrocchia. Per quanto riguarda i libri, vi ho dato qualche suggerimento stamattina, a questo malloppo così pesante e così pauroso, è il Catechismo della Chiesa Cattolica, ecco, quello di Ratzinger, ecco, che nessuno legge, tutti hanno, ma nessuno legge, perché di fronte a un catechismo del genere si dice misericordia, se devo sapere tutte quelle cose lì per andare in paradiso ci rinuncio. Partenza al paradiso, ecco. Comunque ci sono tutte le indicazioni, sto scherzando, fondamentali, che bisognerebbe invece verificare, tenere presente, criticare quel che volete, perché è pur sempre espressione teologica, non è il dogma, è spiegazione del dogma, quindi il dogma o quello che crediamo essere la verità rivelata può essere spiegata così, può essere spiegata così, ancora in un altro modo, ecco. I catechismi sono tentativi, la teologia javista del secolo X, di cui abbiamo parlato, che ha prodotto Genesi 2 e 3, è un tentativo di catechismo di quel tempo. Vi ho detto che i preti dell'Antico Testamento a Babilonia, qualche secolo dopo, hanno impostato lo stesso catechismo sulla verità di Dio creatore, ma l'hanno impostato in modo molto diverso. Questo è naturalezza, non la scandalizziamoci, anzi abituiamo la gente ad un po' di elasticità mentale, come tutte le nostre esperienze crescono, mutano e possono variare per il meglio, così è dato per il processo di espressione. D'altronde se andate a scuola qualsiasi insegnante vi dice che una traduzione può sempre essere fatta meglio di quello che è stato fatto. Ecco perché anche le traduzioni della Bibbia vengono continuamente riprese, è la stessa traduzione che usiamo per la liturgia, la traduzione della CEI oggi è in revisione, tra qualche anno uscirà una nuova revisione, perché ogni 10 anni una traduzione è vecchia, il vocabolario è cambiato, gli usi e i costumi si diversificano, eccetera. Ecco, quando si ha questa elasticità mentale non è più facile, è più difficile, perché poi bisogna tenere anche un po' dietro. Invece c'è gente che a 70 anni, 80 anni, a 130 anni vive con lo schema del catechismo della prima comunione, quelli di cammino non so cosa è. No, scusi, non trovo alla Stalmaris. Come è? Quel catechismo. La CEI ha fatto, cioè la Commissione Episcopale Italiana, come le commissioni episcopali dei vari paesi, hanno adottato e adattato il catechismo universale alle esigenze dei vari paesi, e quindi avete per la CEI, chi fa il catechismo lo sa, i vari catechismi adatti all'età degli adulti, all'età dei giovani, all'età dei ragazzi, per la prima comunione, per la crisi, ma adesso sono tutti abbastanza biblici e partono tutti da Gesù Cristo, come abbiamo detto, ecco, in genere, quindi approfittatene, specialmente se avete la responsabilità di catechismo. Un bel catechismo che dopo il Concilio aveva preso spazio e aveva creato interesse, era il nuovo catechismo olandese, ma per il fatto che proveniva dall'Olanda fu guardato con un po' di sospetto e il Santo Ufficio e la congregazione della dottrina aveva imposto delle modifiche, delle aggiunte che sono state messe in appendice. Quindi basta prendere il catechismo e leggere e vedere le aggiunte che sono state suggerite. Questo era molto bello nello spirito del Vaticano II, un po' azzardato su certe cose, come sapete che fu la Chiesa olandese in un certo periodo, subito dopo il Concilio. Sono anche quelle comunità che pagano per tutti e che però aprono alla gente alle volte delle visioni nuove, delle visioni. Chi volesse approfondire i primi 11 capitoli della Genesi che vengono indicati come la preistoria, ecco, ma attenzione a quella parola storia, io ho detto che è da prendere in un determinato modo, molto bello a livello ancora di cultura media, ma già un po' sostenuta, fatto da degli studiosi, padre Grelot, un grande biblista francese, ecco, potrebbe per esempio seguire questo quaderno qui che fa parte di una traduzione in italiano della famosa collana francese Cahiers Evangiles. Ecco, era Gribaudi allora che a Torino, che subito dopo il concilio traduceva questi quaderni, poi ha interrotto la collezione, la traduzione, perché forse ne vendeva troppo pochi, non so, per ragioni commerciali, ha venduto i diritti a Borla, a Roma, adesso è Borla che porta avanti la traduzione, ma io ho tutta la collana francese, sono arrivati a 150 giù di lì, e alcuni, un buon numero, tradotti in italiano. Questo, se ce l'avessero ancora, Le origini dell'uomo, Genesi 1:11, che riprende i singoli passi, fa una certa esegesi, interpretazione, che già a livello di cultura un po' più sostenuta. Ecco. Bene, abbiamo detto di terminare oggi sul battesimo, perché di fronte a quello che abbiamo detto, ecco, cambiano le prospettive. Nel battesimo noi abbiamo vecchi la certezza che era fatto per cancellare la colpa originale, ma se abbiamo detto che di colpa originale e si trasmette non c'è niente, allora date il battesimo per cancellare i peccati che non ci sono, non ha molto senso. Oggi il battesimo è ancora presentato così, può darsi che da certi catechisti o da certi parroci i preti sono quelli che studiano di meno di tutto, perché noi abbiamo studiato forzatamente tantissimi anni in seminario senza capire niente, con professori spesso incompetenti, perché prendevano uno dei tanti che usciva, per obbedienza gli dicevano vai a insegnare questo, anche se non aveva gli studi sufficienti, eccetera. Per fortuna tutti poi abbiamo avuto qualche professore anche eccellente, ma in genere non eravamo molto soddisfatti degli studi fatti. E allora siamo arrivati, poi chiunque, anche chi esce dall'università statale, se potesse non più studiare, non studia più niente. Soltanto che se un medico non si tiene aggiornato, se un chirurgo non frequenta i congressi, se un professore non si aggiorna di continuo, è triste, non è vero? E allora può succedere questo. I preti oggi poi con tanto che hanno da fare, anche se volessero, non hanno più tempo. Quindi, fortunati e ricchi, tra virgolette, siamo stati noi che abbiamo, per necessità di cose, dovuto continuare gli studi, la professione, e allora sono poco competente. Ecco. Chi dovrebbe rendere competenti i catechisti? Dovrebbe essere una catena che si passa invece. Bene. Allora anche il battesimo oggi è visto con punti di vista diversi, ecco, più da 50-40 anni fa. Io avevo tradotto qualche anno fa, era la Pasqua dell'87 già per la verità, un libretto che era intitolato Piccola guida per la vita cristiana, il perché della nostra fede. Era un numero di una prestigiosa rivista francese che trovavate in tutte le parrocchie della Francia, intitolata Fête et Saison, che adesso, com'è? Che adesso però ha sospeso, passati ad una rivista, hanno sospeso. Era il primo lavoro al computer che avevo fatto, un vecchio Apple della prima serie, e poi non so come, non sono riuscito a riprenderlo dal dischetto di origine, ho perso tutto, adesso a rimettermi a trascriverlo, se no ve ne avrei fatto una copia. Beh. E fa passare i vari sacramenti, fa passare i punti principali della fede, e al battesimo, sentite cosa dice, siccome è forma del vecchio catechismo, domanda e risposta, penso che ci aiuti così abbastanza in fretta e nello stesso tempo in modo preciso, concettualmente parlando, raccogliere un po' le idee principali di oggi, della catechesi di oggi, di una certa catechesi oggi un po' più appropriata sul battesimo. Dice, in che cosa consiste il battesimo? Il battesimo, risponde, il battesimo consiste nell'immergere, perché il battesimo significa immersione, no? Quando al termine del Vangelo di Matteo, Matteo fa dire a Gesù, andate in tutto il mondo, battezzate nel nome del Padre, del Figlio, non vuol dire, voi capite, siamo verso gli anni 80-90, Matteo c'era già il battesimo, ma mettendolo in bocca a Gesù, sembra lo stesso che Gesù abbia detto negli anni 30, battezzate, intendendo già il battesimo come noi, versare un bicchiere d'acqua sulla fronte del bambino, ecco, battezzate nel nome, per di più c'è già la formula trinitaria.